Oh, madonna, per un pompino quanto casino. Ma in questo paese non si può più neanche scopare, figurati tu, ma è una cosa... Un paese va a puttane e noi non possiamo scopare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Roba pazzesca! Monnezza, parlate di Pucciac! Direttore pazzesco! Direttore! Ah! Ore 7 del mattino, nel bagno canticchiavo. David sta andando a trance, David sta andando a trance. La mia ragazza ascolta, è incazzata, mi dice: oh, se hai di queste perversioni, dimmelo subito e fa che non lo scopro da altri. Beh, siamo al top. Testa di cazzo, guarda, sei un bastardo, guarda che tu finirai male, coglione che sei altro, guarda. Allora, caro Parenzo, vorrei iniziare con una frase di un pensatore del nostro tempo, con una frase scritta su Twitter. Tu sai il social network che si chiama Twitter, no? Come no, lo conosci bene, certamente. Lo uso molto. È il social network, diciamo, degli snob, è il social network dei giornalisti, il social network dei comuni. Non è quello del bobolo. Quello del bobolo è Facebook oppure Instagram, più o meno così. Sì, diciamolo ogni tanto. Una cosa seria, diciamola ogni tanto, no? Possiamo anche dirla. Allora, ma è pieno di miserabili anche su Twitter. Uno dei pensatori contemporanei si chiama Fabrizio Bracconeri. Ah, bravo, sì. Sai chi è Fabrizio Bracconeri? È uno. Sì, come no, è l'attore che faceva. Ormai non è più l'attore, non fa più un cazzo, diciamo la verità. Cioè, il signor Fabrizio Bracconeri, ragazzi della terza C, là, che cazzo era? I ragazzi della terza C, e faceva poi l'usciere a Forum. Esatto, bravo, bravo. Allora, ha scritto: sei musulmano? Vuoi stare in Italia? Ti mangi subito davanti alle autorità la mortadella e sputi sul Corano ripreso dalle telecamere. Se no, via. Questo non credo. Allora, voi credete che io magari vi dico qualche cosa, che noi possiamo dire qualche cosa sulla legge elettorale, sul caos che è successo oggi in aula, sul fatto che, come diceva Pannella, sono incapaci di tutto, anzi, no, com'è che diceva esattamente la frase? Sono talmente incapaci che sono capaci di tutto! Cioè, questi qua, innanzitutto, non riescono nemmeno a organizzare bene il voto segreto, perché per un motivo tecnico, a un certo punto, sul tabellone della Camera è apparso il voto palese. Incapaci anche di gestire il voto alla Camera. Incapaci di questo. E poi c'è stato poi lo scherzetto di qualcuno che ha voluto far scoprire. Vabbè, ma al di là di questo, comunque è incapaci. Stato De Benedetti è stato. Tu dici, è stato De Benedetti a... Sai perché? Ma poi, ragazzi, basta, fate decidere la legge elettorale da qualcun altro. Vi siete messi d'accordo quattro partiti, non siete in grado di tenere questo accordo. Basta, abbandonate questa partita. Sì, la decida, certo, la Corte Costituzionale, bravo, la bravo. Decida Davigo, fatela decidere al passante di turno, bravo. Fatela decidere a chiunque, non al Parlamento. Siete incapaci. Però prima di affrontare questa cosa con tutti gli audio, con tutta questa pantomima, devo dire anche un po' vergognosa, perché ci fa anche un po' vergognare quello che è successo in Parlamento. Tu dirai: è la politica, è sangue e merda, è anche questo, per carità. Però un po' ci fa ridere, un po' ci fa vergognare. Sì, ci fa vergognare. Se tu pensi, ad esempio, voglio darti solo questo dato storico, poi dopo non ne parliamo più. Dimmi. Tu pensa che il sistema elettorale inglese risale al 1867. Sì, assolutamente. Cioè non lo cambiano dal 1867. Ah sì, ragazzi, è l'inglese. inglesi. Sì, inglesi. Ma poi il bello è che ogni legislatura cambiamo la legge elettorale. Sì, ma poi agli italiani di questa roba non dato questo dato storico, così anche quei poveri imbecilli che telefonano hanno un elemento. Ma perché li devi trattare da imbecilli? Perché? Ma posso dirtela tutta. Sì, dimmela tutta, dimmela tutta. Ma no, no. Disprezzo quelli che chiamano uno a uno. Mamma mia, amico mio, mi fanno schifo. No, mentre mi piace moltissimo la maggioranza silenziosa, la gente che ascolta la trasmissione, che poi me la commenta, mi abbraccia, magari qualcuno mi dice non sono d'accordo con lei, ma fortissimo, grazie. Cioè mi quelli che chiamano Cruciani, li disprezzi. Quelli la maggioranza silenziosa, quella che ascolta, che riflette, prende appunti, cerca di capire, eccetera. Quelli che chiamano l'800, io sono 6 anni che te lo voglio, mi fanno schifo dal profondo del... No, però sbaglio su questo. Posso dirtelo con la fede? Ma sai... Ragazzi, chiamate e mangiatevelo, perché sta dicendo delle corbellerie, lei. Chiamate e mangiatevelo perché sta dicendo delle corbellerie. No, tu c'è la merda! Tu non conti un cazzo! Capito perché? Io però voglio iniziare con un'altra cosa, ragazzi. Voglio iniziare con il maestro Semproni. Lo so, caro David, lo so. Non ti arrabbiare, ti prego, non ti arrabbiare. Il maestro Semproni è meglio del caos della Camera. Ci ha dato un'altra grande lezione. Il maestro Semproni from Pescara. Il maestro, io e mia moglie in camere separate perché ho l'alito pesante. Non so se è lei che ha l'alito pesante, la moglie? Beh, come mantenere un rapporto saldo? Io e mia moglie in camere separate perché lei ha l'alito pesante. Io sono camere separate. Tu dormi rigorosamente? Sempre separato, abbiamo dormito, ognuno prefatta su, l'alito pesante su ha dato fastidio a me. No, quello ma su, fanno lumine e quelle te fa secche. Che cazzo ti accuo? Nulli, sta la camera su e stinga la camera. La prendo a scarpate se mette i piedi gelati sotto il mio sedere. Stanno delle 12, io quando c'ho i piedi gelati metto i piedi sotto il culo di mio marito. Se ne facessi che me, io pieno la scarpa credo in campo. Capisci? Non esiste. Ovviamente il tema delle scoregge. Senti, Semproni e la moglie. Salza le coperte, ci sta la gente che fa alzare le coperte quando vogliono certe botte. Ci sta quelle che avete sotto, avete sopra sente certe botte, caro mio, che fanno paura. E sono proprio quell'aria, l'aerofagia, capite? Pam, vi partono queste botte, caro mio. E il sesso, uno va in camera dell'altro. Comunque è una cosa di grande civiltà, voglio dire, da parte Semproni. Una volta ti devo mandare inviato a Pescara a casa di Semproni. Beh, straordinario. Volentieri, sì, volentieri. Per fare sesso ogni uno... tanto è bello incontrare degli animali, andare allo zoo, va bene, volentieri. Ma si paga il biglietto per andare con lo zoo lì, a casa Semproni. Fermo lì. Quando poi devi fare sesso, o vi dalla parte di là, o si vede qua e si fa su benedetto sé, qual è lo problema? Allora. Però non si dà fastidio, ecco. Va bene ragazzi, il Parlamento, allora dove iniziamo il Parlamento? Mandatemi qualcosa del Parlamento di oggi, il meraviglioso caos del Parlamento di oggi. La Boldrini, la votazione è un errore materiale. Nonostante le procedure tecniche previste per la votazione fossero già state messe in atto e comunicate, c'è stato un errore materiale. Il PD dà la colpa ai 5 Stelle. Voi avete tradito le aspettative dei vostri elettori, voi avete tradito il vostro blog, avete tradito le promesse che avete fatto a chi avete detto che questa legge elettorale la votavate. Voi non sapete scegliere, voi avete paura di decidere, voi avete paura di scegliere e questo è il motivo per cui la legge elettorale è fallita. Toninelli, 5 Stelle che dà la responsabilità al PD. Il Partito Democratico conta 300 parlamentari. Colleghi! In quest'aula. E se c'è qualcuno. Colleghi! Allora, Presidente. Colleghi, per favore, ripristiniamo delle condizioni adeguate in quest'aula. Vada avanti, deputato Toninelli. Ma stiamo scherzando! Questa responsabilità ve la assumerete nei confronti degli italiani e del Presidente della Repubblica. È vostra! Voi non siete in grado di tenere il partito. Noi abbiamo detto che votavamo a favore e lo abbiamo fatto. Vi dovreste vergognare. Ma c'è certo punto la Boldrini aveva interrotto il spento il microfono di Toninelli, che si prende il microfono di uno accanto, ragazzi. Cioè, da tempo che non si vedevano queste scene meravigliose alla camera, devo dire, sembrava un po' morta la camera, no? Si è risvegliata improvvisamente per questa roba qua. Stupendo, meraviglioso. Oh, ancora una parolina su Rina, A parte che Grasso, presidente del Senato, ha detto oggi che se Rina vuole uscire dal 41 bis collabori con lo Stato, faccia i nomi, eccetera, eccetera, ma probabilmente non li può fare. Salvinone, senti Salvinone che si è espresso pure lui su Rina, senti. Non rompetemi i coglioni con i diritti umani, la sensibilità, la pietà. Gente che ha decine di stragi e migliaia di morti sulla coscienza sta in galera. Poverino ha 86 anni, poverino un cazzo. Onde che chiudete, cornuti! Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta La Zanzara. Seppe, volevo ringraziarti perché mi hai aperto gli occhi. Sono sposato da 17 anni e con mia moglie ci facciamo 5-6 scopate all'anno massimo, considerando che le faccio fare la bella vita. Ogni scopato, ho fatto un conto, mi costa tra i 5 e i 6 mila euro. Ora la mando a fare in culo, vado ad escort, le trovo più giovani, cambio donna quando voglio e risparmio circa 25 mila euro all'anno. David, prendi carta e penna e fai due conti pure tu. Miserabili! Allora, a proposito di Islam, religione di Bashe, Parenzo, religione di Bashe, Islam, i giocatori dell'Arabia Saudita giocavano contro l'Australia, Una partita, immagino, di qualificazione ai campionati del mondo, oppure di... Sì, qualificazione ai campionati del mondo. Si gioca in Australia ad Adelaide, Non hanno partecipato al minuto di silenzio, non hanno rispettato il minuto di silenzio per l'attentato di Londra, per le vittime dell'attentato di Londra. Mentre gli altri erano al centro del campo, come si fa di solito, a me non me ne frega niente nel minuto di silenzio, non ne faccio una questione. Beh, no, di questi tempi sarebbe stato. Non è quello il punto. Prendere posizione. È che questi, di questo stato canaglia che si chiama Arabia Saudita, di questo stato canaglia, e me ne fotto del fatto che ci sono molte aziende. Non me ne frega niente, è uno stato canaglia, è uno stato che andrebbe bandito e isolato, non me ne frega niente, né delle aziende, né del petrolio. Ma neppure Trump dice questo, Trump ha isolato il Qatar. Trump le fa tutte giuste le cose, Cioè, mica ho detto che le fa, mica c'ho la foto di Trump a casa. Il tuo amico Donaldone ha fatto un'operazione politica in cui ha isolato il Qatar, ma ha fatto l'alleanza con l'Arabia Saudita. Quindi questi stronzi, non si capisce perché tu devi dichiarare guerra a tu. Questi stronzi hanno detto che il minuto di silenzio non fa parte della nostra cultura, ci dispiace. Ma vaffanculo. I will be the greatest president that God ever created. Intanto ad Acri, provincia di Cosenza, un signore che dice di essere il commissario della Democrazia Cristiana locale, esiste ancora la DC, classe dirigente italiana, o persone che vogliono essere classe dirigente italiana, improvvisa un comizio. Acri, provincia di Cosenza, costui è candidato al consiglio comunale, si chiama Angelo Cofone. Senti. Allora, buonasera a tutti e grazie per essere qui. Sono Angelo Cofone, il commissario della Democrazia Cristiana. È da un po' di tempo che sogno di riportare questo partito nel nostro paese. Sogno di riportare la DC nel nostro paese. La strada in pessima condizione, la chiusura del CUP, la scarsa manutenzione dei due depuratori che abbiamo a Sardicella, che vengono riversati tutto su segno vedo tolto. Facciate un applauso, noi non siamo a capo di questo. Una roba incredibile. A un certo punto dice sugno, io non ho capito, qualche calabrese ci deve spiegare questa cosa. Sugno, non so che, cioè. Va tradotto. Lo so cosa pensate, che sono tutte parole quelle che facciamo, ma vi sbagliate perché? Perché le nostre parole volano al vento, anzi vi prometto che se vinceremo tutto per c'è. Mandesi. Vabbè ragazzi, poi altro, mica è finito, cofone. Giovanni da Roma, vai. Giovanni? Eccomi. Dimmi. Io volevo dire una cosa al signor Parenzo, no? Sì, che io apprezzo, stimo tanto, lo stimo, non sono della maggioranza. Sentiamo. Ma però sei veramente ipocrita, veramente, sì. Mi dispiace, sì. Ma te lo dico da radicale. Perché sei come quelli, quando arrestano il politico tutti quanti, l'arresto facile, e tutti si ricordano che il sistema carcerario non funziona. Per inverso, devono liberare Totorina e tutti si ricordano che il sistema carcerario è ingiusto, è fuori legge. Io me lo ricordo sempre. La gente muore di malattie che fuori non esistono neanche più in galera. Lo dico, e tutti a piangere per Rina. Liberate quei poveracci che muoiono di AIDS e di immunodeficienza. Sì, però su questo Parenzo è sempre stato d'accordo, devo dire la verità. Sì, però lui è quello, è il radicale. Vabbè, vuole liberare pure Rina. Ragazzi, radicale nell'animo dico che va liberata la bestia più feroce per far illuminare anche lo scandalo dell'ultimo detenuto. Ma tu lo sai che ha ordinato di far sciogliere un bambino nell'acido? Lo sai? Io dico questo e mi lo sai o no? Lo sai o no? E basta quello, finita, è tutto finito. Dico questo e mi taccio. Porta le battaglie radicali ai 2 milioni di persone che ti ascoltano tutti i giorni a fare dottore, hai rotto il cazzo. Ma che c'entra questo? Quando arrestano il politico amico tuo o quando vogliono liberare Rina, perché le carceri sono contro la legge sempre. Da sempre, ma cosa c'entra questo? Dai, ma cosa c'entra? No, invece è vero, perché la gente ci muore in carcere anche per malattie che fuori non esistono. Ma di a questo qua, che purtroppo ha le orecchie che non le ha pulite col cotton fioc, che io politici arrestati in carcere, amici non ne ho, questo te lo vorrei ricordare. Dimmene uno di politico mio, parli che non è che sono amico di politici. Allora, secondo Grillo, vi lascio così, poi ci risentiamo dopo. Secondo Grillo, la televisione modifica il viso. Senti. Oggi ci sono dei software di Stanford che mentre parli in diretta cambiano l'espressione del tuo volto e ti fanno fare delle facce, mentre parli in diretta in televisione e ti cambiano l'audio con la tua voce, quindi ti possono far dire qualsiasi cosa con qualsiasi espressione nel momento in cui fai la diretta. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No! Adesso il capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco! Ma è una roba pazzesca! Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là, da Bergamo, sì! Da Bergamo, vai all'aeroporto. E rapporto, Linate, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. È una roba pazzesca! Sì! A vendere l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Non ce l'hai. Cana, non ce l'hai. Cana, non ce l'hai. Mentre non ce l'hai. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. La Zanzara. E stai un po' zitto, cazzo! Ti stai zitto, per favore? Oh, Belin! Ah, ma Parenzo non facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui. Diritto di morire con dignità. Sto cazzo! Sto cazzo! È giusto fare uscire Rina di galera. Aspettare che si formi la calca di leccaculi che vogliono baciargli la mano e poi dargli fuoco a tutti. Parenzo, la scarcerazione di Rina è un boccone amaro anche per la maggioranza silenziosa, ma come al solito lo deglutiremo in silenzio. Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Comunque ragazzi, quello che è successo oggi in questa partita tra Australia e Arabia Saudita è veramente incredibile. Cioè, ti dimostra come questi sono fuori da ogni logica umana, dalla democrazia, dalla civiltà. No, ma è chiaramente un gesto vergognoso. No, l'Organizzazione Mondiale del Calcio, perché per chi non lo sappia si chiama FIFA, forse tu non lo sai, FIFA, dovrebbe cancellare oggi... Che non vuol dire paura. No, vuol dire un'altra cosa, è un acronimo, ma... dovrebbe cancellare oggi i mondiali che ha fissato in Qatar. Tu non lo sai, ma i mondiali del 2022, i mondiali dopo la Russia 2018, che già lì se ne potrebbe parlare. Dirlo a Trump, sai, al tuo amico Donaldo. I mondiali del 2022 vanno cancellati e tolti al Qatar, tolti immediatamente al Qatar. Tu hai anche ragione, può sembrare una provocazione, ma questa volta hai perfettamente ragione. No, ma dillo al tuo amico Donaldo. Ma sì, però. Ma lo diremo in tutti i modi possibili e immaginabili. Il problema è un altro, che io lo dico per altri motivi già da tempo, che bisognava non darli a Qatar. Altri motivi, diciamo, calcistici, non si possono fare i mondiali di calcio in Qatar. Ma dopo quello che è successo oggi, che riguarda l'Arabia Saudita, ma tutti i problemi riguardano anche il Qatar, vanno tolti i mondiali al Qatar. Andassero a Napoli, guarda. No, a Napoli non si sì, può. Sì. Napoli, io che c'entra i mondiali? Che c'entra? Qua, ma che c'entra? Il calcio a Napoli. Ma una che c'entra? Per comunque, meglio l'Italia del Qatar, non c'è dubbio. Sì, senza dubbio, bravo. Ma dateli all'Inghilterra, ecco. Date i mondiali in Inghilterra. Mondiali all'Inghilterra, mondiali di calcio all'Inghilterra, toglieteli a quei paesi di merda arabi maledetti che finanziano il terrorismo. Sì. No, paesi del cazzo, che non devono avere i mondiali di calcio. Direttore pazzesco! Lo show di De Luca, il governatore del mondo, davanti a un ragazzotto dei lavori socialmente utili. Eh sì, io ti dico, ragazzi, va bene tutto, ma perché in Italia ancora ci sono i lavori socialmente utili? Perché? Andrebbero cancellati. Anche quelli. Ma cos'è? Perché? Ma scusa, ma Davide, ma abbi pazienza. Ma non si può sempre dire che va bene tutto. No, i ma lavori sociali. Ma cosa sono i lavori socialmente utili? Si tratta di clientele, soldi pubblici, spesi per non fare una mazza. Bene, sarebbero un'occasione per molti. In realtà, ma occasione per che cosa? È gente che non fa un cazzo e che prende quattro soldi facendo dei lavori che non hanno futuro, non hanno sbocco. I lavori socialmente utili vanno cancellati, vanno tolti, sono solo fonte di clientela per la politica, ma è talmente chiaro. Comunque, questo di fondo. Ma la cosa eccezionale è De Luca, che a un certo punto, paonazzo, il governatore del mondo, si mette a discutere con un gentile signore, che è un ragazzo dei centri sociali. Sì, dei centri sociali, uno di quelli che voleva impedire l'arrivo di Salvini a Napoli, abbiamo ricostruito, e gliene dice di tutti i colori, ma in realtà parlano una lingua incomprensibile. Senti. Fammi sento, voglio i parla con mamma. Si vuole sente, se no me ne vado. Ti sto dicendo la versione definitiva per non farti perdere tempo. La regione, diversamente dalle palle che vi racconta, non fa il progetto lo di lavoro socialmente utile. Perché mi fai perdere solo tempo? Perché nel frattempo io devo risolvere altri problemi. Ma già risolvi i boss della Madonna che stanno in tanti. E qua andando, l'assessore del comune di Napoli, anziché riuta, ha voluto controtare l'assessore, che serve solo a mandarvi a comprare il sale, ma che non voglio decidere niente. Tu sei assessore di politica sociale della comunità, definisci il tuo progetto, presentalo alla regione, non ne avevi! Non ne ho vera, ma è straordinario, il governatore del mondo che parla in salernitano. Oh, baby, you're my little rock. quello che tu chiami progetto, è una carta di Mazzarù, è già. Quindi sta dicendo. No, sì, sì, è su Madula, è su Madula. Da oggi ci sono rapporti chiari. Stefano da Padova, vai Stefano, vai. Mi sono tolto le cuffie. Ciao Cruciani, mi senti? Dimmi, dimmi. Ecco, allora, non faccio parte né della maggioranza silenziosa né della minoranza rumorosa, ma ne frega niente. Sì, ma non è minoranza quella rumorosa, eh? Chissà. Sì, ma... magari diventerà maggioranza. Ma chi se ne frega, non me ne frega niente. Volevo dire una cosa, molto pacatamente. Sì. Sì, allora... mi ha veramente sconvolto la notizia dell'Arabia Saudita e della squadra di calcio che davanti al mondo ha fatto la figura che ha fatto, e mi ha fatto venire in mente una cosa che devo, che ho letto da qualche parte, non è la mia idea, ma so che la fanno da qualche parte. Sì. Cioè? E precisamente i terroristi che si fanno saltare per aria o che vengono uccisi durante lo scontro a fuoco con le forze dell'ordine eccetera, vengono consegnati, sì, ai loro parenti, sì, dentro a delle pelli di maiale. No, io non credo che avvenga questo adesso, francamente. Aspetta un attimo, ma non è un'idea da buttare via, ti spiego perché. Cioè, secondo te vanno riconsegnati i terroristi? Poi assolutamente che sì. Cioè, perché, quelli ammazzati? Quelli ammazzati, perché loro dici? Non gliene fotte, fammi finire il tesoro, perché non gliene fotte tesoro nulla. Sono tre giorni che mi metto in linea, ma vai. Comunque, vai, dimmi, dimmi, dimmi. Beh, ecco, allora, a questa gente non gliene fotte niente di prendere, andare a baciare la loro bellissima bambina di 18 mesi con uno degli ultimi qua di Manchester, eccetera. Dopodiché va dove deve andare, si fa saltare per aria, ammazza bambine da 8 anni, ragazzine di 16, non gliene fotte. Dunque, perché fanno queste cose? Perché poi loro vanno nel loro paradiso con le 70 vergini, con le latte miere, con che cazzo. Vabbè, dunque vogliono. Se vengono riconsegnati dunque, con la pelle di maiale, impuri, loro diventando impuri non hanno quindi tutta la diciamo quella la religiosità, la tradizione, eccetera, e restano e non vanno in questo paradiso per il quale vanno a immolarsi. Lo so che dico una bestialità. Parenzo, come giudichi questa proposta di Stefano dalla tua città, che è Padova? Cioè quella di riconsegnare quelli che evidentemente hanno il corpo intatto, dunque non i kamikaze, avvolti in una pelle di maiale. No, ma quelli come? Riconsegnare? Guarda, io come sai da qualche anno ormai non sono più cittadino di Padova, anche per anche perché c'è questa gente qui, capito? Cioè, gente chi? Stefano? Che ne sai che è un elettore di Bitonci? Magari non è un elettore di Bitonci. Sicuramente, ma certamente. Io ormai sono residente del comune di Roma, perché questa Padova non è questo ci manchi qui, molto. Qui. È un peccato che tu sia andato sì, via, Parenzo, perché ci vogliamo bene. Questo personaggetto qui che pensa di far ridere o facendo una provocazione stupida. No, non c'è niente da ridere, non c'è nulla da ridere. Pensa di, come dire, di insultare anche la usare, vedi la barbarie che cos'è. Ma dov'è la barbarie? È una proposta, è una proposta. La barbarie è quella che si fa il no, vabbè, Parenzo, mi scusi, sa, abbia pazienza. Lei non sono di quelli con i quali lei si bea della sua cultura marginale e molto superficiale. Cioè tu pensi veramente che possa essere un deterrente per il terrorismo? Permessi, perché la gente deve sapere che se la sera prima no aspetta un attimo, se io sono un criminale e ho deciso di andare al teatro alla Fenice dove sono stato l'altra sera a vedere il Barbiere di Siviglia, no, tanto perché a Parenzo piacciono queste cose bravo qua. Ma l'hai capito almeno, non occorre guarda, se vuoi gliela canto anche tutta come lei, quelli che dicono guarda, ho appena letto un libro, sì l'hai letto ma lo hai capito, però anche cioè che no, questa è una battuta che a lei ho fatto mesi fa, quando ho richiamato Barbiere di Siviglia, lei pensava di andare al Barbiere perché pensava che le facessero i capelli, invece era un'opera di Einaudi, no, guardi ho due lauree. Non è quello, perché lei ha detto anche fa due lauree, ha detto due minchiate, ha detto delle minchiate accademica. Ma perché delle minchiate? Riconsegnare. No, ma lei avrà la cultura accademica, ma ha detto una bestialità inaudita, perché l'idea di come dire, incartare i corpi dei kamikaze nelle pelli del maiale è una bestialità assoluta. Cioè lei può aver preso le lauree al CEPU o Ivana Firenze. Vai Ivana, ciao Stefano, Ivana. Buonasera, sono di Massimo Olivo. Non sento un caso, sì, dai, forse. Dimmi. Vorrei intanto salutare Parenzo e dirgli non c'è bisogno di leggere il mio messaggio. Non c'è bisogno di salutare Parenzo. A casa mia si saluta. Sì. Ciao, sorella. Questa... Legga il mio messaggio Ma questa è casa mia, però. Vabbè, ho capito. È casa nostra. Vabbè. Dunque, vada avanti, non perda tempo. Avanti. Leggo il non messaggio mi su Instagram. Male. su Instagram, non mi snovare, che sono della maggioranza silenziosa. Ti piace, allora, Parenzo? Cristiani, ti piace Parenzo? Sì, mi piace anche tu, però... Ma ti piace eroticamente, Parenzo, ti piace o no? Sì, va bene, può essere... Perché Ivana? Ma non era un messaggio, no, era un messaggio. Ma questo può anche essere, ma non è una novità, va benissimo, infatti. Perché è vi ho mandato un link di due senegalesi che stanno facendo un po' un programma uguale alla vostra, che è una novità in Senegal, quindi volevo farvelo vedere. In Senegal fanno la zanzara, ma di che pare? Ferma, ferma, sì, lì, ferma, ferma. Ferma lì, ferma. Ferma. Da voi. Ferma. Vattene, Satana, vattene, Asmodeo. Mettiti Parenzo, mettiti Parenzo. A me mi piace Ostigio. Sei Asmodeo, sei. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. Parenzo, non si entra nell'angolo rotture della zanzara! Ah! Avete cagato papà la minchia a sta trasmissione, solo stronzate contate, eh! Cruciani, ma sei troppo incazzato, troppo imbastardito, troppo polemico. Devi scopare un po' di più. Chiamami. Scusami, ma chi è questa qua? Non lo so, ha lasciato un messaggio, amico mio, che ti devo dire? Ha lasciato anche il numero la signora? Beh, naturalmente, eh. Naturalmente. Naturalmente. Sai che ho un po' di nostalgia nei confronti del deputato polacco Micke. Grande una persona, nostalgia. Una persona veramente orrenda. Figurati, ti ricordo che aveva questa camicia bianca con i gemelli. I gemelli erano delle pallottole. Beh, amico mio, io direi che prima o poi dalla Polonia bisognerebbe fare un collegamento con naturalmente. Naturalmente. Col signor... Ma le donne sono inferiori, ma naturalmente. Ma come? Ma che sta dicendo? Scusa. Hitler in fondo era un buon uomo, ma naturalmente. Naturalmente. Naturalmente. Pazzo scatenato. Signor Micke, dovremmo fare un collegamento dalla Polonia con Micke. Ma capisci, Micke. Ecco, questa gente qua distrugge l'Europa. Cioè, questa gente ma qua che distrugge l'Europa, amico mio, se non ci fossero questi. Se non ci fossero questi, moriremmo di noia. Di noia mortale. Viva Micke! Viva Micke, il ma polacco! Invece, al di là di dire sempre viva Micke, ma tu lo sai che grazie all'Europa, grazie all'Europa tra sei giorni ci sarà la fine del roaming, ad esempio. Ma che cazzo me ne frega a me del roaming? Sì, ma io non viaggio, me ne frega. Sto a Milano, non viaggio, me ne sbatti i coglioni del roaming. Ma non viaggi, fai molto male invece. Perché ma non me ne frega niente. Tu devi dire grazie Europa, il vessillo dell'Europa deve garrire con orgoglio e dignità questi sovranisti. Ma in realtà non è vero quello che dici, perché è da tempo che dovevano farlo e l'Europa casomai è stato un ostacolo, dai. No, grazie all'Europa, tra sei giorni tu potrai andare nei tuoi bordelli. Ma che grazie all'Europa, dai, su, smettila. L'Europa, il Parlamento Europeo l'ha fatto, tra sei giorni tu puoi andare nei bordelli, parliamo di cose che ti interessano direttamente, certo. Diciamo, tu e i camionisti, diciamo ai camionisti che il primo camionista imbecille che telefona e dice che è a favore di Salvini, io gli dirò che se lui adesso va in Francia e telefona, dovrà dire grazie e telefona a un bordello per sapere se è libero, per farsi fare blow job o qualunque altro tipo di attività o manine, quello che vuole, gang bang eccetera, dovrà dire grazie all'Europa e quindi non dovrà dire grazie a Salvini, perché Salvini la vuole distruggere con l'Europa, invece grazie all'Europa tra sei giorni potrai telefonare in tutta Europa con i medesimi costi, grazie Europa, questo è il punto. Grillo, dove cazzo era? A Taranto. Grillo a Palermo. Ah, vabbè. Ci date dei fascisti, ci date degli omofobi, ci date questo, diteci fascista. Ditecelo, siete questa parola, di nuovo una parola che vuol dire tutto e niente. Una parola buona tramutata in una parola terribile, cattiva, contro l'Europa, contro tutto, populista. Se non ci fossimo noi che facciamo da cuscinetto, saremmo come qualsiasi nazione oggi in Europa che si ritrova a avere il terzo o quarto partito di nazisti in Parlamento e di fascisti in Parlamento. Se non ci sono è perché ci siamo noi la rabbia. Questa è una delle più grandi puttanate che dice Grillo, cioè, ovviamente dice anche delle cose giuste Grillo. In questo caso è una puttanata pazzesca, cioè secondo lui il Movimento 5 Stelle è un argine ai fascisti. Bah. Noi non possiamo vincere col 40%, tutti mi dicono non arriverete al 40%, lo so, se noi non arriviamo al 50% per me è una sconfitta, metà italiani devono votarci. Attenzione che la Russa potrebbe accusarci di mandare in onda i comizi di Grillo. Ecco, bravo. I attento, comizi esatto, di bravo, Grillo. Bravo, ma ragazzi, esatto. Ma è chiaro che noi mandiamo in onda quello che dice Grillo, perché anche un comico fa ridere. I comizi degli altri politici sono una rottura di coglioni. La vogliamo dire tutta la verità? Cioè, quando Grillo va in piazza, anche se fa il politico, anche se parla di politica, comunque c'ha quella voce da comico, quello spirito, certo. Quelle battute e quelle cose. Per cui io lo manderei sempre, continuamente, Grillo. Me ne sbatto di queste cose, dei bilancini, della par condicio, delle cose. Sono cose insopportabili quelle che dicono i politici. Noi mandiamo Grillo perché ci piace, perché ci diverte, perché fa le battute, perché dice le minchiate, perché dice cose giuste, ma lei sa dire bene, perché è in piazza, perché è teatrale. Ci sono pochi politici come lui, forse solo il Berlusca, ma il Berlusca in piazza non è che rendesse moltissimo. Lo mandiamo per questo. E anche Renzi a suo tempo. Sì, anche Renzi in qualche occasione, però era sempre un po' paludato. Ragazzi, la par condicio è una puttanata pazzesca, è una puttanata. Io l'ho sempre stracciata, me ne sono sempre sbattuti i coglioni. Bravo, ho sempre preso bello. La par condicio e mi ci sono pulito il culo. Beh, ogni no, volta questo, sì assolutamente ogni volta che qualcuno mi ha detto, ti giuro, ogni volta che qualcuno mi ha detto, mi ha consegnato via mail le norme della par condicio, le ho prese, sono andato, le ho stracciate, sono andato a cesso della Pricewaterhouse ovviamente, e mi ci come sono sempre? Pulito il culo sempre, vero, per spregio, odio queste cose può. Qua non me ne frega nulla della par condicio, faccio come mi pare, me ne sbatto le palle. A BNP non possiede hotel, Uber non possiede i taxi, noi non possediamo i politici. Noi siamo una politica senza essere dei politici, e questa è una meraviglia. Ma non l'ho capita questa, non ho capito. Ne dice di tutti i colori che ormai. Senti quest'altra sui funghi con fondi di caffè, senti. Con i fondi del caffè che buttiamo via, puoi fare i funghi, dei funghi champignon, noi invece mangiamo i funghi fatti col caffè, con i fondi del caffè, sono pieni di proteine. Noi invece non li facciamo con i fondi del caffè, buttiamo via il caffè e compriamo dei champignon fatti con letame di maiale pastorizzato. Lo sapevate questo, no? Ma in Germania che fanno? Scusa, in Germania... Ma in Germania lo fanno, è evidente. Ma come i funghi con i fondi del caffè? No, non ci ma posso... in Germania, tu non lo sai, in Germania governano i funghi, ad esempio, li puoi mettere al governo, i funghi, i moschi e i licheni. Se la rete li elegge. Tu, ad esempio, puoi mettere il Boletus Satana a governare il paese, è normale, è ovunque così. Ma no, ma dai, non è possibile, dai. I funghi al governo, i funghi, certamente, sono stati votati, la rete ha detto di sì, governa il fungo. Ma non è possibile che si possano fare i funghi con i fondi del caffè, dai. Effettivamente lo trovo qui, come far nascere funghi commestibili dai fondi di caffè. Ma è normale, la New Economy. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, Va bene ragazzi, eravamo con Ivana. Ivana, che vuoi? Che voglio? Dimmi. Ascolta, io ho chiamato principalmente per parlare, no, della religione musulmana. Che premessa, sì, io dimmi. Sono cattolicissima. Vabbè, non c'è bisogno di fare premesse, che vuoi dire? Perché ho visto, sento che te e la maggior parte delle persone che chiamano parlano sempre dell'Islam senza conoscerla. Invece tu la conosci? Sono certo, perché sono nata in Senegal e sono cresciuta lì fino a 15 anni. Hai conosciuto Spada di Fuoco? Non mi sono mai sentita in pericolo. Sì, Spada. No, non lo conosco. Assolutissimamente. Quindi è una religione che va conosciuta. Vabbè, hai chiamato per dire questa minchiata? Sì. No, non è una minchiata. Perché dovrebbe essere una minchiata? Cioè, hai telefonato per dire, siccome sono stata o nata, non so che cosa, in Senegal, ho vissuto in Senegal, conosco la religione musulmana, questo? Certo, perché prima di parlare di qualunque cosa, uno dovrebbe informarsi, dovrebbe conoscere. È come ieri sera nella trasmissione La Gabbia hanno intervistato tre ragazzi musulmani che praticamente credo siano nati qua, che non conoscono neanche quello che c'è scritto nel e tu invece pretendi di conoscere la religione musulmana? Certo, assolutamente, perché certo. Io sono una persona che prima di dare giudizi impara, conosce, certo. E dunque, e dunque cosa vuoi dire? A parte questa riflessione generale, diciamo, no, cosa ci vuoi comunicare? No, io volevo solo chiedere a me? Delle persone che chiamano di studiare un po' di più. Studiare. Benissimo. Bella figura. Bene, ti do una carezza. Bene. Anche meglio. Certo, non c'è dubbio. Ti do una bella carezza. Con la cultura. Ti do una bella carezza. Uh-huh. Una bella carezza. Prendi il tè, ti metti a letto e tranquilla. Un bacio. No, ciao. Devo andare a sentire un concerto al Duomo di Firenze. Vai a sentire un concerto. Dormirò più tardi. Bene. Benissimo. Vai a sentire un bel concerto medievale. Che cos'è? Però musica. Vedi, la maggioranza silenziosa ragiona così. La maggioranza? Un viaggio nel tempo. No, dico la maggioranza silenziosa va ai concerti, fa delle riflessioni per il paese, pacate, civili. Alessandro da Piacenza, dai, non ha detto un cazzo questo, è intervenuto a due minuti per non dire una mazza. Alessandro, che bisogna studiare. Sì, studia. Alessandro da Piacenza, noi studiamo ogni giorno. Studiamo casi umani ogni giorno, compreso il suo. Alessandro, vai, dimmi. Ciao, io a proposito di quello che dicevi poco fa sui comizi dei politici, io ti vorrei invitare a Piacenza a sentire il comizio di Torre sindaco. Abbiamo già dato ieri con Torre, amico mio. Infatti, sono convinto, allora? Amico mio, che perderai la scommessa. Sì, la scommessa ancora non mi ricordo se era 500, alla fine 500 voti. 500 voti e gli offriamo una cena, signor Torre da Piacenza. Vedremo. Io sono convinto che devi stare a scegliere lo stellato. Vabbè. Perché 10 minuti fa era un delirio in Piazza Piacenza. Vabbè, un delirio, che cazzo vuol dire? Anche Sgarbi spesso va in piazza, poi prende pochi voti. Anche è successo a un sacco di persone andare in piazza e prendere pochi voti, eh? Cioè non è che è automatica la cosa. Spesso vai lì, lo vedono come un comico, vanno in piazza, ma poi non lo votano. Succede spessissimo. Ciao Alessandro. Tu sei una pezza di merda, sei. La Zanzara. Allora, questi due cialtroni che governano la trasmissione, cioè Giuseppe Cruciani e David Parenzo, questo pomeriggio, talmente affascinati dalle parole del signor Bracconeri, poco prima di entrare in studio alle 18.30, lo hanno intercettato. Bracconeri, ne è uscita fuori questa roba qui. Sentite l'ex attore, perché ormai è un ex attore Bracconeri, e il suo... no, odio, insomma la sua... Odio. No, ma che odio, cioè, il suo astio nei confronti dell'Islam. Però è meglio Donato da Varese, eh? Pronto? Bracconeri, amico mio. Sono Cruciani, come va? Oh, Cruciani, Bracconeri, sì. Fabrizio Bracconeri, amico mio. Ma che hai combinato? Che hai detto sull'Islam? Ho detto sull'Islam, ma io non lo so, ho detto. Tu hai scritto, sei musulmano. Se sei musulmano, devi mangiare la mortadella, ripreso dalla televisione, dalle telecamere, la mortadella e sputi sul Corano. Perché voi seguite, siccome seguono il Corano che dice delle cose allucinanti, dice insomma che le donne sono sottomesse, devono essere, ma a me non mi sembra una cosa che possa funzionare in un paese. Ma Bracconeri, ma che cosa stai dicendo? Ma non si può insultare così un testo sacro? Dice un musulmano che deve mangiare il maiale? Oh. Eh sì, perché che è una cosa grave. Allora il musulmano può mettersi certo le bombe che e far saltare la gente. Allora, quello che fanno, ma il musulmano loro, non è che si fa saltare così. Se tu liberi dei leoni in città, non puoi dire tre leoni mordono, mangiano e l'altro sono innocui. Perché tu, i musulmani, purtroppo, sono questi. Non è che so. Cioè, li vuoi cacciare tutti dall'Italia? Vorrei che quelli che stessero in Italia si comportassero in maniera civile. Sì, ho capito. Se tu vuoi essere inserito in una civiltà come quella che c'è occidentale, devi comportarti in maniera adeguata. Sì, ma mi sembra che loro la realtà è che tu pensi che siano incompatibili totalmente. Questo il punto. Beh, fino adesso mi sembra che siano incompatibili totalmente. Io non ho visto una persona normale nei diritti umani. Cioè, se uno, siccome è successo che gli hanno detto questo è il terrorista, sputa sul terrorista che ha fatto la stazione, loro neanche su quello sputano. Se a me mi dicessero sputa sulla fotografia di Rina, io ci sputo. Capito? Loro invece non ci sputano, li difendono. Ma chi è quel cretino che ti chiede di sputare sulla fotografia di Rina? Ma che cosa, che modo barbaro è di fare una riflessione? Sei un barbaro. I barbari sono loro che fanno gli assassini. Tu sei un barbaro. No, io sono una persona normale che trova delle, almeno. No, è normale questo, è da dimostrare. E perché che ho fatto da normale? Ho ammazzato mai qualcuno, ho fatto un attentato in una moschea. Ma che c'è? Ma ti sembra normale quello che dici? Sputare sul Corano, devono mangiare il maiale, dici delle cose inaudite, scateni la guerra santa, sei un irresponsabile. Sei un irresponsabile. Tu sei un irresponsabile, sei il più grande irresponsabile, stai distruggendo questo paese, non c'è un cazzo da ridere, sei un irresponsabile, non esageriamo, basta, vergognati, stai offendendo un milione e mezzo di musulmani, sei un irresponsabile, basta, chiudi! Chiudi tutto, chiedi scusa, irresponsabile. Chi li vuole far entrare ed integrare come fare? Una razza che non si può integrare. Una razza, che c'entra la razza? Una razza. La religione. Finché non tutto capite uguale, la differenza tra stato laico e stato religioso, loro non possono integrarsi. A cacciali via tutti allora sti musulmani che stanno in Italia, no? Bracconè. Io caccerei via tutti quelli che si comportano in maniera non corretta, quelli che dicono che le mogli devono andare in giro col burka. Ma tu ci saresti mai con una donna musulmana? Ma manco se me la fanno venire vicino casa. E se ti dicessero, guarda, te porto una a casa, una bella figa musulmana, ci staresti io? No. E come no? No, perché che poi devi scatenare una guerra. A me non mi vanno a scatenare guerra. Allora, ma che c'entra la guerra? Non te faresti una bella musulmana? No, ma perché me ne frega a me? Cioè, se non lo sapessi che fosse di religione diversa. Mamma mia, ma guarda che non ti vuole, veramente stupisce come un attore bravo, anche di talento. Ma ormai fa manco più l'attore, perché si deve ridurre a dire delle stupidaggini violente e pericolose. Che ne pensi dei Rom? Io ho sposato, mia moglie è rumena, perciò figurati, però penso che i Rom vadano cacciati e calci nel culo tutti, perché sono tutti una massa di farabutti. Se su 100 Rom che ci sono, ladrissimi, il 95% sono delinquenti. Perciò io, se devo fare una cena, le tue parole sono pericolose. Tu sei un potenziale criminale. Stai accendendo delle micce violente, stai creando. Ci sono un milione e mezzo di musulmani del nostro paese. Stai offendendo un milione e mezzo di persone. Un milione e mezzo di persone hai offeso. Ma tu, scusami, devi chiedere scusa. Siete gente pericolosa. Tu e Cruciani siete persone pericolosa. State distruggendo questo paese. Tu stai contribuendo per parte tua. Tu e Cruciani state distruggendo sistematicamente questo paese. Scusami, ma Bracconè, io voglio dire una cosa. Tu il Corano l'hai letto o no? Avrà letto al massimo Playboy, avrà letto. No, neanche Playboy, perché non leggo queste stronzate. Avrà visto YouPorn al massimo. Il Corano, Maometto, chi è il signor Maometto? Ma non sa niente, è un somaro. Sì, so somaro, però intanto mi sono rotto il cazzo da averceli a casa mia, io voglio caccia via. Perché se si compone, io non è che ho detto caccio via i negri o gli ebrei o quelli. Io sto dicendo caccio via i musulmani. No, i negri per me stanno bene. Guarda che io ho amici negri, amici che si sono integrati benissimo, amici rumeni, froci, amici albanesi, amici froci, di tutti i tipi. Però le persone che sono integrate, che vogliono stare nella civiltà, chi non vuole stare nella civiltà e pensa che la moglie sia sottomessa o la figlia non debba andare a scuola, vestita all'occidentale, debbano lo sa, per me andare a casa loro, a calci in culo, tutta l'Europa, tutti i paesi del Mediterraneo, nessuno si preoccupa di questi quattro figli della mignotta che barche che vengono e se non preoccupa noi. Perché chi non ma scusami, Bracconè, ma perché ci pensa Malta? Del signor Maometto, vogliamo dire qualcosa del signor Maometto? No, perché io non offendo un Dio che secondo per loro è il Dio loro. Per me un Dio profeta, è un'altra cosa. È un profeta. Ma perché non sapete nulla? Allah è Dio, che sarebbe anche il tuo Dio, peraltro, perché è il Dio unico che loro chiamano Allah. Maometto è un profeta e tu sei un cretino irresponsabile. Hai visto la differenza qual è? Che Maometto è un profeta e tu sei un irresponsabile. E Cruciani è il capo degli irresponsabili. Hai scritto delle cose che offendono un milione e mezzo di persone. Ma questo è quello che fa incazzare. Hai parlato di mortadella e sputare sul Corano, insomma, dai, su. Scusa, se ti dicessero sputi sulla foto di Rina, sputi sulla foto. non ci sputeresti? Dimmi la verità. No, Surina, ma che c'entra? Surina, però, ma sul Corano. Ma io non sputo sulla foto di nessuno. Ma oh, che cosa tu vuol... ti sputeresti o no? Rispondi alla mia domanda. Allora sputa sul Corano. Prendi un Corano, abbi il coraggio. Prendi un Corano e sputaci sopra. Lo faresti? Ma io non lo farei, perché non sputerei manco su un libro qualsiasi. Perché secondo se me. Se pensi che sia una specie di manuale dell'odio, prendi e sputaci sopra. Se è un manuale dell'odio. E allora sputaci sopra. Ma cosa ne sai? Ma sarebbe come prendere la Bibbia e interpretare alla lettera la Bibbia. Ma nessuno si permetterebbe mai di dire che nella Bibbia ci sono scritte delle stupidaggini, no? Vabbè, ma certo, ci stanno scritte delle stupidaggini, però ne interpretano tutti, mentre i musulmani ne interpretano le stupidaggini che si stanno scritte sul Corano. Vabbè, bracone, te saluto. Ciao, ciao, ciao. Tu sei il più grande culatore del mondo. Sei il più grande culatore del mondo. Cattiva! La zanzara. Io in passato sono stato innamorato, fidanzato, mettila come vuoi, con una ragazza arrivata dall'Uruguay appositamente a Milano per fare la puttana. A volte faccio parte della maggioranza silenziosa, a volte di quelli stronzi che vanno a mignotte. Parenzo, coglione, Parenzo, coglione, hashtag sulibero.it. Guarderete ancora l'aria che tira adesso che lo conduce Parenzo? 11% sì, 89% no, perché sei sgradevole, ripugnante, un miserabile ebreo raccomandato di merda, pure froce cornuto, fottiti coglione. Cioè Mauro ha un odio nei tuoi confronti che rasenta l'ossessione, cioè è ossessionato, è andato a vedere un sondaggio che hanno fatto sul Libero, no? Hai visto? Non avevo visto questo sondaggio. Beh, infatti mi sono stupito che tu non l'abbia visto. Mi dispiace, Libero è un giornale, cos'è esattamente? Sì, è un giornale, non fare il coglione, dai, tu è un giornale, è un quotidiano, c'è anche un sito internet, è Libero un quotidiano. Quotidiano? No, ma che il direttore... Cioè, vuol dire che esce tutti i giorni? Sì, tranne... No, ah, tutti okay. I giorni, tutti i giorni. Tutti i giorni. Tutti i giorni. E tu hai citato un sondaggio di questo Libero, quindi si trova sulla internet, sulla rete, sì, allora. Tra l'altro un sito che il direttore del giornale rinnega sì, dice non ho mai fai niente quel sito lì. Hanno pubblicato... ti dà l'idea di come hai fatto. No, ma vallo a compulsare. Il sito è fatto molto bene, divertente. No, ma vai a compulsare il sondaggio, no, che hanno fatto. Ma dà l'idea di che il direttore stesso c'è il sito. Ma fai niente. Però in effetti a me che cazzo me ne frega di stare qui a rompermi i coglioni a parlare con parenti. Esattamente, ha ragione. Vittorio Sgarbi e lo squirting. No, sai cos'è lo squirting? Beh, non è che lo so, io l'ho inventato io. Come l'hai inventato tu lo squirting? Sì, l'ho introdotto in società, nel mondo femminile. Sì? Ne ho fatto materia di dibattiti. Beh, stupendo, pratiche, questo non lo sapevo. Cioè... pratiche sessuali. Per quanto tempo abbiamo, come dire, sottratto questa bellissima azione al povero Rina? Quale tortura è stata? Lui sono anni che non può squirtare. No, che non può, lui no. Io non penso che quella fosse tra le priorità del capo di era capo. Quello il 41 bis. Non fargli vedere una fica colante per 25 anni. Pensa che per tortura. Non vederla. È peggio che morire. Ma a te piace questa pratica? Ma era più bella la conversazione con Rina, però. Ah, ti piace? È meravigliosa? Cioè, tu godi come un pazzo a farti squirtare addosso. È la tortura del 41 bis. Il 41 bis è... non vedrai più una donna squirtare. E tu pensi che anche quello lì ti dubbiò? C'è anche un mistero. Chi sarà la politica italiana con cui è stato Sgarbi? Che squirta. Che è una grande squirtatrice, chi è nella storia? Una che hai conosciuto, che si può dire, eh? Una che si può dire, tanto tu ormai dici tutto. Beh, si era una personalità molto importante nel mondo della politica italiana. Chi è? Addirittura? No, sì. Come? Cioè, una grande squirtatrice. Sì, grande, grandissima. Titanica. Addirittura. E chi è questa qua? Lo farò dire a te, però, perché se lo dico io. Dimmelo, facciamo. Oggigiorno ti vedo privatamente, così tu diffondi la voce. C'è una politica italiana, ma vivente, sì. Ma viventissima. Allora ragazzi, nonostante io, come sapete, sono una persona molto libera in quanto a sesso, soprattutto nei discorsi sul sesso, io non so, credo che lo abbiamo capito, insomma, assolutamente, non so cosa ne pensi tu, cosa ne pensano gli ascoltatori sulla questione che ormai imballa da un paio di giorni, di questa scuola di Modena, tu sicuramente l'hai letta, David, dove è stato letto e diffuso tra gli alunni della quinta elementare di 10 anni un testo molto esplicito sul sesso. Le proteste di alcuni insegnanti che dicono che non è adatto all'età. Ti voglio leggere un passaggio, al di là dei disegni che ci sono, che sono abbastanza, diciamo, non particolarmente, però ci sono donne, una donna nuda, un uomo nudo, i due che si accoppiano. Guarda, il sesso, il sesso maschile, il sesso femminile, la sessualità non è una cosa sporca. La rendi sporca tu e quei quattro maiali che chiamano, no, tu, non tu come persona Cruciani, tu come conduttore radiofonico Cruciani, ma esaltando, diciamo, le porcherie di questi schifosi che telefonano, raccontando le loro imprese sessuali. Questo lo rende non sporco, cioè di per sé, vedi, io non avrei nulla contro le gangbangers, voglio dirti questo, cioè non è che io dico. E allora qual è il problema? Che non si possono raccontare? Non si può raccontare l'idea di questi rassemblamon di uomini e donne dove non c'è ma guarda che le orge sono qualcosa di divino, le hanno fatte tutti grandi scrittori, grandi poeti, grandi intellettuali. Le orge sono uno a uno, perché quello ti misuri anche di più, no? Comunque non importa, non cioè nel senso sessualmente ti misuri di più, questo è vero. No, ti misuri nel senso che fai sentire tutto il tuo amore a quella donna, ma non è questo il tema. Ma io, a me fanno schifo perché distruggono la bellezza dell'amore, anche del stesso, questi porci, che porci, come dice Donato Bavarese, no? Porci che telefono e raccontano queste imprese sessuali che assumono un carattere schifoso raccontate da loro. E questo, ma non è così, tu lo questo sai. È il punto. Allora, un libro letto in quinta elementare, che tu adesso leggerai quei passaggi, che forse sono gli stessi che ho letto anch'io, non sono cose sporche, perché quei bambini hanno innocenza. Allora, mettiti nei panni, mia figlia fa la prima media, tua figlia la quinta elementare, la quarta elementare. Allora, dunque, potrebbe essere indirizzato a tutte e due. Allora, nel testo che è stato diffuso ci sono queste parole: parlano, giocano, cioè un uomo e una donna che scoprono di piacersi, parlano, giocano, fanno le passeggiate e vanno al cinema. Poi sentono il bisogno molto forte di ricevere e dare tenerezza. Si baciano e si accarezzano per tutto il corpo, esprimono con parole affettuose l'amore che provano. E vabbè, fin qua ci siamo. Segue però la descrizione dell'atto sessuale. Allora il pene dell'uomo diventa grande e duro e la vagina della donna si inumidisce. Allora ragazzi, 10 anni. Allora il pene dell'uomo diventa grande e duro e la vagina della donna si inumidisce. No, ma magari ora, a parte che alcune vagine non si inumidiscono. Vabbè, te lo segnalo. E alcuni peni non diventano duri. Questo è il caso di quello di Mercuba. Questo non è che vogliamo entrare. Ti sto dicendo che poi si può anche, capito? Uno è anche impressionato, un bambino di 10 anni. Se poi non ti diventa duro, come io ho letto a 10 anni che doveva diventare duro. Vabbè, uno lì fa l'esempio. Ad esempio un ragazzo che lavora alla Zanzara che si chiama Mercuba, uno mette anche la foto di Andrea e dice: guarda, capita anche a lui, non ti preoccupare. Comunque continua il testo: per tutti e due è molto bello quando la donna fa penetrare il pene rigido dell'uomo nella sua vagina. Tu non l'avevi letto tutto, i due lo fanno muovere avanti e indietro nella vagina e provano un piacere intenso. Di qui i rumori, eccetera eccetera. Il testo si chiude così: alcuni chiamano questi momenti fare l'amore, ma a seconda dei paesi si chiama in tanti altri modi. Comunque il testo fondamentale è quello là. Allora ragazzi, io sono una persona molto aperta, eccetera, però francamente, se voglio parlare di vagina e pene a un bambino di 10 anni, non faccio parlare una cazzo di professoressa che non so cosa gli viene in testa di diffondere tra bambini di 10 anni questo testo. Ci parlo io a casa e ti posso assicurare, David, che se un genitore parla in questo modo a un bambino e questo bambino va a raccontare in giro, capace pure che viene qualche assistente sociale a casa e ti arresta per pedofilia. Ma guarda, può essere pure, cioè, casi però limite. Il grande tema è come insegnare l'educazione sessuale. Chi se ne frega, se ne occupano altri, me ne sbatto coglioni adesso, ti sto dicendo semplicemente una cosa: noi che siamo così espliciti, così, come dire, chiari, non è che vogliamo che, lo siamo alla radio e qualcuno, se qualcuno può spegnere la radio, ma se tu sei in classe e ti becchi sto libricino, un bambino di 10 anni si becca sto libricino e gli dici il pene duro, la vagina umida, oh, ma ragazzi, ma di che parliamo? Ma è una follia o no? Sì, no, non mi pare di essere bigotto, dai. No, no, e no, poi ti ripeto, se vogliamo essere ironici, se vogliamo essere ironici, eh beh, amico, uno a 10 anni sa che c'è il pene duro, e perché? Che ne sai quello che succede? Ma dopo? Ma a 10 anni è meglio che fosse. Amico mio, dai. Gianni da Napoli, che c'è, Gianni? Gianni! Appena fosse scampato ad un attentato terroristico, non lo so, qui la resta è stata forte. Che è successo, Gianni? Tanta. Che è successo, Gianni? Niente, una persona di colore alza la maglietta, mostra il macete e succede la resta, la costa alla porta. Ma dove? Dove esattamente? Siamo a Napoli, linea allora, 1. No, Gianni, allora, ti dico subito una cosa. Sono un po'... No, ma io ti dico subito che qui ogni tanto chiamano dei mitomani, però poi i mitomani la pagano, te lo dico subito. I mitomani, cioè, se tu dici che è successo questo e questo in una metropolitana a Napoli... ma se è una minchia, io ci credo, ma se tu racconti... Abbiamo il suo numero di telefono e se lei... No, è uscita fuori la notizia, Il reato si chiama procurato allarme. No, ma mi dicono che è uscita fuori la notizia. Allora, Gianni, raccontami bene che cosa è successo. Senti, all'improvviso io ero nella metro, stavo per scendere a casa e è passata questa notizia che c'era un uomo armato di macete. Ci siamo cominciati a guardare intorno, gente cominciata a spingere, usciamo, sapete, il panico. Hanno aperto le porte, siamo scappati tutti alla prima fermata, quando poi la situazione diventata sostenibile. E siamo usciti tutti di corsa, è un macello, guarda, forse qualche ferito penso c'è stato, siamo riusciti, io penso, non sono neanche riuscito a vederlo. Si vocifera una persona mulatta con una bandana, roba sì, no, genere. Pare invece che sia un clochard ubriaco, che è caduto con un coltello da sotto la maglietta. Comunque, ma tu qui, che cosa hai visto tu esattamente? Che cosa hai visto? Ho visto solo il panico e si è parlato di un macete e onestamente ho pensato al peggio. Hai pensato solo a scappare? Abbiamo pensato a scappare, ma non c'era altra possibilità. Tutti spingevano verso le porte e onestamente nel dubbio uno scappa. Ma tu eri dentro la linea 1? Sì. La vicenda, da quello che si sa, è successa all'altezza della stazione dei Colli Aminei. Sì, e lì siamo usciti, insomma, sì. Vabbè, comunque tu non ti sei fatto nulla o sei inciampato? No, tutto a posto, no, non mi sono fatto niente, no, fortunatamente sono giovane, sono riuscito a scappare, a divincolarmi. Vabbè, ciao comunque, Gianni. Comunque, insostenibile. Cosa insostenibile? Cioè, nel senso che secondo te è scattato il panico terrorismo? Colpa dell'Islam, colpa dell'Islam. Ma adesso giriamo anche noi col macete, che dobbiamo fare? Ma non era un macete, amico mio, non era un macete. La voce era subito macete, qui subito scappa, subito fa macello. Cioè, Parenzo, che ne pensi di queste cose? Parenzo, tu che ne pensi? Che dobbiamo fare? Ma penso che sia una cosa pazzesca. Ma chi c'entra? Ma dai un consiglio, dai un consiglio a Gianni che dice che indirettamente ha detto chiaramente la colpa è tua. Ha detto chiaramente la colpa è tua. Questo vuole dire Gianni, la colpa è tua. Posso dirti questo, perché fai da sponda all'Islam. Questo vuole dire. Io vi lancio questo grande messaggio: non farsi mai sopraffare dalla paura. Mi porto un po' di champagne per cortesia. Non farsi mai sopraffare dalla paura. Io ad esempio adesso sono qui a Rapallo, c'è una vista sul mare meravigliosa, io non ho paura. Comunque sai che ti dico, che fai veramente schifo, cioè di fronte a Gianni che vive a Napoli, magari è morto di fame, non credo, no, Gianni, che mestiere non fai, Gianni? Non farsi sopraffare mai. Delle persone normali. Sei normale. Questo hai di fronte questo coglione qui che è in un albergo dove si sta facendo versare dello champagne, mentre tu sei fuggito da un attentato, da un presunto attentato. Non farsi sopraffare mai dalla paura, loro non vinceranno perché noi siamo l'Occidente democratico, l'Occidente dove c'è la gauche caviar. Che champagne hai ordinato a proposito? Stavo scherzando, non ce ne sono. Ma che sì, stavi scherzando. Sì, vabbè. Gianni, non ho capito il tuo umore, qual è adesso? Ma io sto incazzato, impaurito, incazzato, ma ce l'abbiamo le armi per difenderci noi da questa paura? Che cazzo ne so, sì, adesso era un ubriacone. Ma io sono abito in una metropoli, non lo so, tu sei di Milano, lui sta a Roma. Io sono della filosofia parenziana, non me ne frega un cazzo. Quello che succede, succede, non me ne fotte nulla. Non farsi sopraffare dalla paura. Io sono così, non me ne frega niente, nulla. Ma no, ma certo, ma se no non faremo più nulla. Io vado tranquillamente al cinema, negli stadi, nei luoghi pubblici, vado in metropolitana, non a Roma perché la metropolitana fa schifo, ma a Milano giro. Ti fa schifo la metro a Roma? Ti fa schifo? Totalmente. Ti fa schifo la metro? Beh, troppa gente, troppo sudore, no, troppo popolo, troppa realtà, troppa vita, troppa vita. A differenza di Milano, che la metro funziona, la metro Gianni, di Roma non funziona. Gianni, come fammi parlare con un testimone, sempre a parlare delle cose tue. Gianni, la metro funziona qua. No, ma ho capito. Gianni, com'era l'umore delle persone intorno a te, le persone che erano intorno, spaventate? Guarda, la cosa incredibile è che nessuno aveva visto questa persona, almeno non erano abituati. Chiunque ti girava e parlava, ma l'hai visto? Ma chi no, era? Ma nessuno l'ha visto. Nessuno l'ha visto, solo il panico. È un po' come quello che è successo a Torino, il panico. Non ci sono dei moventi veri, però la nostra paura ormai è sedimentata. Noi al minimo allarme siamo pronti a lanciarci. È l'Islam questo, è l'Islam come religione di Bashe, caro Parenzo, che porta queste conseguenze, capito? L'Islam è sottomissione, è paura. Se è paura. È l'Islam come religione di Bashe, capito? Di Bashe. Vabbè, ciao Gianni, grazie, grazie di questa testimonianza, ciao. Lasciativo Parenzo e alla defecarsi non ci penso. La Zanzara. Dana, all'Akbar. All'Akbar. All'Akbar. Ma Vittorio, perché continua a parlare di sesso se non gli si alza più? Vittorio, è finita, hai appeso l'uccello al chiodo, basta, caput, morto, senza pilloline, non resusciti nulla, ritirati, capra! Volevo dire che Vittorio Sgarbi mi ha veramente rotto il cazzo. La Zanzara. Sì, pronto, Helen? Ciao tesoro, buonasera. Ciao tesoro, mi chiamo David. Volevo chiederti un'informazione, se era possibile. Ma è certo. Se volessi venire domani da te, ci sarebbe posto? Sì, sì, certo. Amore, io lavoro così. Te quando fa venire domani, devi fare un preavviso 20 minuti prima, che così quando mi fa la conferma che sta arrivando non prendo altro appuntamento. Ho capito. È una cosa importante, siccome io faccio parte della maggioranza silenziosa, volevo sapere, è possibile se magari vengo lì con un mazzo di rose o magari andiamo a mangiare qualcosa in un bel ristorante, insomma senza bisogno di pagare, ecco, una cosa che insomma trovo un pochettino fuori luogo, cosa ne dici? No, sono qua, tanto non abito a Pisa, sono venuto giustamente solo per lavorare, non ho tempo di uscire, questa cosa. Ma anche se faccio parte della maggioranza silenziosa, siamo persone molto ben educate, insomma. No, ma perché è questo? Quindi ho preso un appartamento, ho pagato questo appartamento, pubblicità giusto per questo. Ho capito. Va bene, allora nel caso adesso mi consulto e le telefono domani. Va bene, tesoro. Grazie, buonasera signora. Grazie. Buonasera. Grazie a te, anche a te, ciao. Beh, Davide, vedi, cioè nel senso che la maggioranza, esponenti della maggioranza silenziosa, no, provano ad avvicinare le gentili signori trans in sì, tutta non Italia. Non devono farlo, sbagliano, cioè questi qua della maggioranza silenziosa in realtà sono della minoranza rumorosa, camuffati da maggioranza No. Ma ti spiego perché, nessuno della maggioranza silenziosa, nessuno della maggioranza silenziosa verrebbe mai in mente di disturbare una lavoratrice del sesso o di andare... Ma quella era una trans che giustamente di fronte all'invito a cena, ecco, dice, no, io per... La maggioranza silenziosa non va a trans, ad esempio. No, non è vero, non è vero. Allora, lì... decalogo, è vietatissimo. Ma figuriamoci, dai. Quindi diventa assurdo disturbare la lavoratrice e dirle le porto un mazzo di fiori, perché non c'è conquista. Comunque è un format interessante. Devo far chiamare a nome di David Parenzo qualche trans in tutta Italia. Sì, certo, qualche trans in tutta Italia. Ma io denuncio chiunque, si chiamano per sostituzione. Perché... tu che fai una cosa del genere, che denunci per sostituzione di persona. Certo. Allora, Linda da Milano, vai, Linda. Linda, qua c'è scritto sotto. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Ho scritto sotto fruttariana. Beh, la cosa mi emoziona, amica mia. Una donna fruttariana, beh, stupendo. Allora, cosa mangi? Ma sei anche tu melariana come quello dell'altro giorno oppure no? Sì, io sono melariana, ma una decina di giorni all'anno, quando facciamo il raduno melariano. Cioè, per il resto dei giorni un che raduno? Fai? Melariani, i raduni melariani. Che cazzo ne so, guarda. Cioè. Che stiamo insieme 10 giorni e mangiamo solo mele. E invece per il resto dell'anno che fai? Mangio, la mela la mattina, frutta poi? Dolce a pranzo, sì. E frutta ortaggio e frutta grassa la sera. Che vuol dire frutta ortaggio? Frutta grassa, quali sono? Le pesche, ad esempio? No, no, no, frutta grassa si intende olive, si intende avocado, si intende appunto questi frutti qua, insomma. E invece quella, l'altra, che è albicocche, queste No, cose... quella è frutta dolce, e poi invece la frutta appunto ortaggio sono i pomodori, cetrioli, zucchini, che normalmente consideriamo verdure, ma in realtà si tratta di frutti. Allora non siete fruttariani, siete vegetariani, cioè sei vegetariana o no? Eh no, ma botanicamente è un frutto lo zucchino, parliamo Amica mia Linda, ma perché ti fai tutte queste pippe mentali? Io te lo voglio dire molto semplicemente, ti fai delle pippe mentali pazzesche, è tutta una pippa mentale, la frutta così, la frutta colà, eccetera, perché la carne... No, ma è per un discorso di salute. La carne tu la odi? Io sono 10 anni che non mangio carne, ho deciso di non mangiare i miei amici animali. I tuoi amici animali? I tuoi amici animali, ho non li mangi gli amici animali. Come mai non mangi? Perché non li vuoi vedere morti, non vuoi vedere la sofferenza, perché pensi che quelli che invece li mangiano sono, come dire, dei complici di un assassino? Dimmi un po'. No, in realtà la ragione etica poi mi si è anche sviluppata in un secondo momento. Beh. Più che altro io parlo di salute, quindi sappiamo, l'ha detto anche l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, sì, che la carne è cancerogena. Vabbè, quindi, adesso non è vero. Viviamo appunto in un mondo malato e cerchiamo soluzioni per vivere meglio. Senti Linda, ma tu potresti stare con un onnivoro, cioè con quello che mangia la carne, cioè potresti convivere, avere un fidanzato, un amante, eccetera, oppure li scegli anche in base a questo? No, sì, certo, però poi lo devo convertire. Ah, poi lo devi convertire. Cioè, a quel punto o lo converti oppure lo devi lasciare. Non mi è mai capitato, ma penso di sì. Cioè, in che senso? Sei stata sempre con i tuoi simili, diciamo, fruttariani, melariani, eccetera? Sì, no. O sei lesbica, no? Vegani. Non sei lesbica? No, per il momento no. Bisex. Come per il momento, signora mia, cosa vuol dire per il momento? Perché potrebbero piacerle anche le donne, che ne so. Io ho l'idea che le cambiare idea, per me il cambiamento è una grande libertà. No, ma io ho l'idea che le fruttariane, le melariane siano un po' anche lesbiche, non so perché, cioè mi è venuta questa fissazione, non so. C'è chi è fruttariano o melariano alla fine? No, ma è vero che avete la figa alcalina, come si dice? La vagina alcalina? Dottore, per cortesia, al 100% non garantisco, al 100% non garantisco, però diciamo che come tutti i liquidi che vengono secreti dalle ghiandole sono meno acidi, perché non abbiamo il pH acido tutto lì, insomma. Cioè dunque sicuramente, come ci ha detto l'altro giorno il suo collega fruttariano iraniano, la sua vagina emette meno odori, o no? Questo si può vedere, perché infatti le mutande non puzzano come prima. No, e questo è interessante. Fermi tutti, blocchiamo tutto, caro Parenzo. Dottore, la prego, dottore, venga, dottore. Ma in trasferta, che si porta il maggiordomo dietro, scusa. Dottore, quando c'è trasmissione, paura, miserabili, portare tutto l'altro per terra. No, io sono filippino, dottore Valenzo, che sente parlare di vagine, di polchelie che vengono messe nella vagina, polchelie. È molto, dottore, deve imparare un po' di cose. Deve imparare un po' di Linda, cose che sta in Italia. Cioè, le mutande, non ho capito, le mutande, spiegami un po', le mutande di una fruttariana barra melariana. Possiamo anche tenerle più giorni, perché appunto non ci sono perdite come magari puzzolenti, maleodoranti, come chi mangia cose acidificanti. Cioè tu per quanti giorni tieni le mutandine? Ma puoi tenerle anche per una settimana, diciamo, da fruttariana? No, una settimana no, ma perché poi a me piace anche cambiare i colori, per cui vabbè, comunque le potresti tenere, le cambio per un fatto estetico, ecco. Dal punto di vista igienico le potresti tenere anche 3 giorni, 4 giorni? Sì, un po' come me, Parenzo. Io che non sono fruttariano le tengo lo stesso 3-4 giorni. Bisogna vedere però se No, le mie sono sporche, le mie, diciamo, sono, le mie tendono poi. Le tue invece sono linde come te, no? Sono esatto, linde. Infatti mi chiamo così. Sì. Senti, ma la cacca come la fai? Cioè, i fruttariani barra melariani, ripeto, stiamo parlando con esponenti importanti del mondo politico italiano. Cioè, Linda, fruttariana melariana di Milano, ci sta dicendo che può tenere le mutande perché è più pulita, più non c'ha gli odori brutti, cattivi, l'alito pesante. Vedo che comunque, cioè, ti stai documentando bene. No, ma non me lo stai dicendo tu, io non ci credo assolutamente a queste puttanate. Cioè, sto cercando di spiegare alle persone che ci ascoltano qual è la tua posizione. Io non ci credo a queste cose. Sono puttanate inaudite, inaudite. Cioè, una persona, io penso di avere lo stesso alito tuo, poi può darsi pure che abbia dei difetti miei, come dire, congeniti, oppure ho l'alito per altri motivi, ma non è che penso che i fruttarini melariani abbiano un alito migliore. A proposito, ti ripeto, qual è? Non lo so. Linda, la cacca, come la fai? Allora, dipende da quello che si ingerisce, ovviamente. Cioè, di solito a palline, come diceva la No. Però che diciamo che rispetto all'alimentazione precedente è meno maleodorante, questo sì. Oppure ti dirò questa specifica, l'odore cattivo dura meno. L'odore cattivo dura meno. Cioè, non persiste come magari in quella di mio fratello, che è un ariano. Che cos'è tuo fratello? Un ariano. Onnariano, che vuol dire onnariano? Che mangia tutto. Ah, onnariano. Perché onnivoro non esiste, perché in natura non esiste onnariano. L'animale onnivoro. Ma, ogni animale ha il suo cibo specie specifico. Senti, le fruttariane melariane hanno più potenza sessuale o meno? Potenza? Sì, potenza nel senso quello riguarda gli uomini ovviamente. Ma una donna si scopa meglio da fruttariani, insomma, diciamo la verità, o no? Ma diciamo che viene meno... molta aggressività, per cui c'è più gioco, c'è più ricerca di questo tipo di piacere, ecco. Sì, scopate meno, diciamo la verità, c'è meno forza fisica, meno aggressività, meno potenza, questo è il punto, o no? C'è meno, diciamo, sì, insistenza da quel punto di vista lì, c'è più leggerezza. Siete in pace con voi, cioè cercate meno questo aspetto, come dire, bestiale del sesso, no? Bravo, lo cercate bravo, meno, bravo, lo cercate bravo, meno. Sì, che sì, tristezza, sì, ragazzi. Siamo più evoluti da questo punto di vista. Beh, evoluti, ma dipende dai punti di vista. Cioè, allora, Linda, insomma, sostanzialmente abbiamo capito che si scopa poco in quel mondo, là, di fruttariani barra melariani. Beh, prova a venire a un raduno melariano, poi ne riparliamo. Per carità, ma assolutamente. Senti, ma lo sperma maschile, che succede per una... Che rapporto ha una melariana fruttariana con lo sperma maschile? Qual è il rapporto? Vabbè, come sempre abbiamo già detto, si tratta di, diciamo, di esecrezioni che sono meno acide rispetto a quello normale. No, ma è un rapporto positivo, ecco. Cioè oppure una roba che non si può tollerare, una roba che... Ma a che cosa ti riferisci nello specifico? Beh, ai contenuti, no? Ai contenuti, o no? Vabbè, ma contenuto sicuramente è meno, diciamo, meno denso e meno puzzolente. Dici? Sì. Meno denso, sì, meno puzzolente. Beh, grandi indicazioni da Linda da Milano, possiamo anche andare oltre. Grazie, grazie, grazie. Grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Signora del Santo, sa che cos'è lo squirting? Sì, è quel ballo dove muovi il sedere. Cos'è lo squirt? Quel ballo dove muovi il sedere. Cruciale, dimmi cos'è sprint. Quel ballo dove muovi il sedere. Perché? Ho sbagliato? Quello che ti muovi tipo convulsamente. Convulsamente. Quel ballo dove muovi il sedere. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Ciao, orta che se parla di pregna sta in mezzo al cazzo. Ah, dottore è uscito. Dottore non può parlare. Dottore è andato a fare aperitivo con professor Zaglebelski. Dottore, tanto sta in mezzo al cazzo. Uzzo Totò è malato, è anziano, devo uscire, Cruciani, pezzo di sbirro infame. Allora ragazzi, vi faccio sentire qualche audio così veloce, eh? Gasparri, Grillo, Nababbo con lo yacht. No, no, ci penso io, grazie. Che fatto? Grazie, che? Anche della, grazie molto anche dell'acqua, arrivederci. Dell'acqua, acqua, champagne. No, praticamente è semplice. Questa struttura, ogni 8 ore vengono a verificare se hai bisogno di qualcosa. Quindi mi hanno chiesto se avevo bisogno di qualcuno che mi chiudesse. Oh, poverino, poverino. No, poverino, no, ma... mi hanno chiesto se avevo bisogno di qualcuno che chiudesse le tende, se avevo bisogno che qualcuno mi preparasse il letto per la notte, adesso mi aprisse le lenzuola e quindi che io possa a luna di notte, dopo che ho fatto grandi conversazioni culturali, rientrare senza quella fatica di alzare federa e trovarlo già sfoderato. Mi hanno chiesto se ho usato, se sono qui da qualche ora in camera. Ma lo champagnino, la champagnino non te l'hanno versato? Lo no, non ho chiesto io, perché quello non è neanche, cioè lo champagne non va mai preso in dimensioni eccessive, va comunque va ovviamente consumato, ma non va neanche ostentato né detto. Quindi ho chiesto semplicemente dell'acqua a temperatura ambiente con un bicchiere con una scorzetta di limone, e subito te l'hanno portato, certo. Esatto. Non ti scomodi nemmeno per l'acqua. Gasparri, Grillo, grazie. Nababbo, grazie. Con lo yacht. Grillo, non lo so, bisogna dire se è consapevole di dove si trova, perché quando sta davanti a gente che soffre come i lavoratori dell'Ilva dice una cosa, poi però la sua vita reale è quella da nababbo sullo yacht di lusso con bandiera di paradiso fiscale in area marina protetta. Salvini e il bagnino Camerata. Facciamo un po' di promozione turistica per la stagione marchigiana, dai. Il mare è bello. Venite qui, le marche, ci abbiamo tutto. Si mangia bene, si beve tutto, meglio. Tutto, ci abbiamo tutto, e la simpatia ci abbiamo. E soprattutto siamo camerati. In bocca al lupo. Un po' sorpreso Salvini anche dal bagnino Camerata. Siamo camerati. Questo nelle Marche addirittura. Ormai non c'è più religione, deve Parenzo, eh? Ormai uno no, espone. Nelle Marche io non andrò al mare. Di Bella, direttore di Rai News 24, dice che la Klotz è una terrorista e l'indipendentista dell'Alto Adige, la signora Klotz, senti. Come reagireste se qualcuno pagasse la pensione ai terroristi di Londra? Intanto noi paghiamo la pensione a Eva Klotz, che è una terrorista dell'Alto Adige. Paghiamo la pensione alla Klotz, che è vero che è una vergogna, terrorista dell'Alto Adige. Per questo terrorista dell'Alto Adige, la signora Klotz, credo che voglia portare in tribunale il signor Di Bella. Ragazzi, veramente incredibile. Detto questo, oggi Sibilia dei 5 Stelle, su Facebook ha scritto che i vaccini obbligatori servirebbero contro la follia della Lorenzin. Contro la follia della Lorenzin. E poi ha anche detto quanti Rolex ha ricevuto. Magari fra un po' di tempo ci accorgeremo che ha ricevuto una serie di Rolex. Guarda, è una campagna veramente bassa e schifosa quella che stanno facendo. Cioè il ministro della salute. Comunque la Lorenzin vuole querelare, eccetera, eccetera. Ma però al di là... credo, ma gli deve portare via tutto. Che cosa dice il tuo amico Girotto, il nostro amico Girotto, sempre quello di Radio Gamma 5. Una larva come Mattarella non poteva opporsi al decreto dei vaccini. Signor Girotto, che poi attacca noi, signor Girotto, antivaccinista, senti. La pressione delle grandi lobby farmaceutiche su questo provvedimento qua era elevatissimo, era enorme e era molto improbabile che una larva come il nostro presidente potesse in qualche modo riuscire a mettersi di traverso a un provvedimento che per il resto è definibile veramente sotto tutti i punti di vista anticostituzionale. A un certo punto dice Monti, Mattarella e Napolitano, gesuiti, esecutori di ordini, sveglia. Senti Girotto. Oggi le classi dirigenti di questo paese, e non solo di questo paese, sono stati tirate su dai gesuiti. Monti è un gesuita, Mattarella è un gesuita. Cioè in gesuita intendo dire tirato su dai gesuiti. Te che hai visto? Sono semplicemente Napolitano era un gesuita. Tutti tirate su come esecutori perfetti di ordini, senza mai avere un solo afflato di libertà e di capacità di scelta. Ragazzi, sveglia, sveglia, che se ora, perché se sono a sveglia, non tocco. Altro che balle. A me comunque, sai che ti devo dire, questo Girotto non mi dispiace, ma non per quello che dice, che sono follia ovviamente, però non vorrei mai che si chiudesse la bocca, si tappasse la bocca. Tu sì invece? Tu sì, ti sei augurato la chiusura di questa radio? Io Io mi auguro invece, magari, non lo so, però sai, la natura, sai che alle volte ci sono dei temporali violentissimi in quelle zone, no? Ecco, io mi auguro che un temporale molto violento non arrechi alcun danno alle persone, alle cose. Ma stai biascicando, sei come un po' ubriaco, lo sai? Sei come hai bevuto? No. Cioè, sei come ubriaco, hai bevuto, dai, no. Carica, forza! Assicurati, no, no, voglio parlare con pacatezza, però senza urlare. Vorrei semplicemente che magari un fulmine, ma soltanto per qualche ora, colpisse soltanto quella, come si chiama, l'antenna, sì, e sì. Solo durante le trasmissioni sui vaccini, soltanto durante, quando c'è la musica, va benissimo. Quando c'è allora, poi riprende la trasmissione, non è che in Valle d'Aosta, c'è un assessore che si chiama Chantal Certan che ha scritto questo su Facebook, ti giuro, l'ha scritto questo. Allora, mai pensavo si arrivasse a tanto. Non ho mai visto riguardo ai vaccini una cosa del genere in nessun paese europeo. Anzi sì, vi è stato già un ventennio in Europa in cui uno con due baffetti faceva sperimentazione su uomini, donne e bambini. Pensavo appartenesse al passato. Cioè, sostanzialmente dice, i vaccini sono come le sperimentazioni di massa fatte dai nazisti. Questo è un assessore regionale della Valle d'Aosta, una signora che si chiama Certan, che io sconosco totalmente. Baldassarre da Firenze, il signor Baldassarre. Molto bene, zio Baldassarre, eh? Vi ho chiamato anche un paio di settimane fa. Ciao, dimmi, Cruciani, dimmi Baldassarre, dimmi. Allora, volevo fare una domanda al tuttologo Parenzo. Siamo quello tutti, che sta tutto lui. Ma la tuttologia appartiene a ognuno di noi qui alla Zanzara. Ma lui è illuminato, magari. Vabbè, allora dai, dimmi. Allora, io vorrei dire a Parenzo, ma tu lo Parenzo, ma... Aspetta un attimo, aspetta. C'è una chiamata sotto? Pronto? Aspetta. Allora, Baldassarre? Allora, ti rappresento, ma caro Parenzo, tu lo sai che, come dici tu, nel mondo arabo, nel mondo musulmano, che parli di rispetto del Corano, che hanno le tradizioni, lo sai che quelli che c'hanno i soldi, che viaggiano in limousine, sono in albergo, nei migliori ristoranti a 5 stelle, a 7 stelle a Dubai, a mangiarsi le salsicce? Caro Parenzo, lo sai? Ma a me cosa me ne frega di giudicare il comportamento degli altri? No, perché tu a me basta che uno non metta le bombe e non si faccia esplodere. No, Bracconieri l'ha fatto una merda, perché Bracconieri, anche nella sua ignoranza, nel suo romanesco, è una brava persona, ma tu te lo fai a parole perché hai un po' più di cultura. Ma tu mi parli ancora del Corano e della Bibbia, lo sai che quello è il più grande business che il Wall Street gli fa una sega? Quello è il miglior business da quando è nato l'uomo, perché l'ha scritto l'uomo quella roba là. Scusi, l'hanno modificato, scusi, professor Severino, come volevano loro. Tu di che stai a parlare, fammi capire cosa dici, Parenzo? Non ho capito qual è la critica. Scusi, però professor Settis, mi scusi, no, ma non ho capito qual è la critica, Baldassarre, non ho capito bene qual è la critica, scusami. No, ma l'hai sentito prima quando parlava di Corano, di Bibbia, e quando ci parlavi anche tu? Vabbè, allora forza, dai, vai al sodo. E allora, e sto dicendo, lui, dacci la soluzione, Parenzo, come ti ho chiesto due settimane. Vabbè, ragazzi, dai, Nicola da Bari, dai, Nicola da Bari. Daccela tu la soluzione. Sì, vabbè, dai. Nicola da Bari, ma dai. Vai, Nicola. Pronto? Sì, pronto? No, sento poco. Pronto? Sento poco. Un attimo, eccomi. Dai, Nicola, dimmi, dai. Oh. Sì, ma non è che stiamo al tuo servizio qua, no. Dai. Oh. E ci sono. Adesso dai, mi senti? Forza, Nicola, ma sei in viva voce, dai. Volevo dire che Parenzo sta dicendo sei col viva voce. Gianluca dalla provincia di Pescara, vai. Buonasera. Dimmi, allora io volevo dire a Parenzo, no? Che secondo me è un intellettuale fashion. Perché mo lancio una provocazione, perché non si mette quattro immigrati scelti a caso dentro aspetta casa? aspetta un secondo. Vodafone, servizio di... Dicevi, Gianluca? Dicevo, perché Parenzo non si mette quattro immigrati dentro casa? tipo quelli che stanno qui in via Ariosto a Monte Silvano, che l'altro giorno l'hanno cacciati perché dentro c'era di tutto e di più. Per quale motivo lui è così il falso buonista, secondo me? Ancora falso buonista. Io non sono perché, falso buonista, allora, io dico allora, che il tema a cosa c'entra prendere a casa? Metti dentro casa quattro ricercatori di felicità, e poi se si comportano male, se si comportano male, tu che cosa fai? Lasci là dentro, perché quelli giustamente guardi, caro amico, il tema che lei pone, allora anch'io allora credo a te, alle tue parole, però non fare il buonista così del cazzo. Gianluca, Gianluca, non ho capito, non ho capito, tu li vorresti tutti fuori questi qua? Sì, questi per esempio in via Ariosto. Ma lascia perdere gli Ariosto, non so un cazzo. Li vorresti tutti fuori dai coglioni, gli immigrati? Certo, caricare tutto in porteria. Tutti gli immigrati fuori dai coglioni. Fuori, e quelli incivili devono essere fatte delle scuole di civiltà prima di attraversare il mare. Scuole di civiltà. Che vuol dire? Facciamo anche per gli italiani un po' di scuole di civiltà. La facciamo anche per i Carmine. Gli italiani sono in minoranza, questi sono il 90%. Ma non mi pare che sia 90%. Facciamo anche per Donato Davarese la scuola di civiltà. Così so. Tutti così. Sei un po' razzista tu o no? Sei un po' razzista o no? Io all'inizio non ero razzista, poi sono diventato razzista. Sì. Ma razzista che vuol dire? Cioè consideri neri inferiori? Consideri neri inferiori? Da un certo punto di vista sì, perché cioè i neri, gli immigrati, tutto un grande calderone. Allora, non dico che i neri sono inferiori, da un certo punto di vista sì, hai detto. Quelli, un certo punto di vista, nel senso quelli, la maggior parte di quelli che vengono purtroppo sono incivili. Perché non pensano prima a civilizzarsi loro e poi dopo facciamo uno scambio culturale? E dove si dovrebbero civilizzare? Portano? Dove si dovrebbero civilizzare? Nel loro paese, come noi abbiamo fatto nel nostro paese a suo tempo. E chi sarebbero gli istruttori? Un lavoro. Chi sarebbero gli istruttori? Gli istruttori dovrebbero essere delle persone che vanno là a istruire queste, magari vengono da qua, vanno a istruire là queste persone. Ti ho dato uno spazio eccessivo rispetto a queste puttanate, perché pensavo che arrivasse fino a un certo punto. Invece chi è che dovrebbe istruirli? Non lo so, quelli che vengono forse da qua, mamma eccetera. Mia, ciao Gianluca, ciao. Vi lascio con Angelo Cofone, candidato Democrazia Cristiana ad Acri. Ragazzi, il numero uno. A domani, ciao. Vi invito a votare Anna Vigliatura perché è l'unica che può darci certezza vera. Grazie. Sicuramente Angelo merita anche il premio della simpatia, quindi senza alcuna ombra di dubbio. Hai capito, Mona? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24, libera la voglia di fare.